risvolti, diciamo, legati alla qualità, sa sempre scegliere dei titoli anche molto accattivanti e soprattutto poi c'è di aiuto per promuovere anche tutto un settore della nostra raccolta bibliografica. Questa sera abbiamo portato alcuni libri, se volete, se avete piacere, di approfondire alcune tematiche, alcuni spunti che verranno dati nel corso di questa conferenza. Sono qui a disposizione, ma questa è una piccolissima parte dei titoli che noi abbiamo legati al tema di questa sera, che appunto il titolo dice: tra lettura, letteratura e politica, Pasolini Gate, dialoghi dal profondo. La figura di Pasolini è una figura ancora oggi molto, diciamo, tra virgolette enigmatica, nel senso che ha dei risvolti ancora da scoprire, ma soprattutto copre una vastità di settori che vanno dalla letteratura al teatro, al cinema, tutto il campo teatrale, ma anche quello impegnato, diciamo, da un punto di vista anche politico. Quindi è una figura tutto tondo che è scomparsa, e anche questo è un risvolto molto difficile da indagare, non ci sono state delle conclusioni, diciamo, ma questo è un altro tema. La biblioteca si impegna appunto con questi incontri settimanali proprio per promuovere la conoscenza ma anche la lettura, e non solo quindi nella parte tradizionale cartacea ma anche quella digitale. Il prossimo appuntamento sarà infatti giovedì, come tutti i giovedì, dalle 15.30 alle 16.30 in biblioteca, dove verrà tenuto un corso gratuito aperto a tutti. L'importante è iscriversi magari entro la giornata stessa o il giorno prima via mail o per telefono, dedicato alla piattaforma digitale. Cos'è? Il BiblioWeb è una piattaforma che può essere utilizzata da tutti coloro che sono iscritti alla biblioteca e che gratuitamente permette di scaricare migliaia di titoli di ebook. Però appunto vi possiamo spiegare, illustrare, far vedere come funziona questa piattaforma digitale. Ci sono anche 50 riviste quotidiane in 50 e più lingue che vengono pubblicate ogni giorno e quindi sono accessibili, e infine anche film e musica, quindi ha una migliaia di documenti che possono essere utilizzati per i vari scopi gratuitamente. Chi avesse piacere di capire come funziona questa piattaforma può rivolgersi alla biblioteca, ma può anche frequentare gratuitamente questo corso il giovedì, dalle 15.30 alle 16.30 in biblioteca al piano di sotto. L'ultimo appuntamento di questa settimana sarà invece venerdì 24 alle ore 18 in questa sala, dove presenteremo il libro di un'autrice molto giovane, non credo raggiunga i 25 anni, e si chiama Elena Messina. Anche questo è un titolo molto azzeccato, La ricetta del dolce perfetto. In realtà è una così, sono delle riflessioni di una giovane donna, scritte con arguzia, ironia ma anche molta delicatezza, e vi invito così a conoscere, ecco, questa autrice bolzanina che presenterà uno dei suoi primi romanzi, perché non è proprio il primo in assoluto, e si chiama appunto Elena Messina, venerdì 24 gennaio alle ore 18 qui. Lunedì poi invece sempre qui avremo una proiezione dedicata alla resistenza in Alto Adige, proprio per onorare anche la giornata mondiale dedicata alla Shoah, quindi figure sulla resistenza che hanno resistito al nazismo e al fascismo e anche a costo della propria vita, come Longhorn, Manci e anche appunto altri esempi di persone che si sono opposte, come Franz Thaler oppure Erkan. Insomma, abbiamo veramente anche in quell'occasione una giornata di riflessione attraverso però un docufilm che verrà proiettato. Lascio adesso la parola a Marco Pugliese, che ringrazio ancora di essere qui con noi e di portare sempre nuova linfa alla biblioteca con le sue proposte e soprattutto anche con i suoi suggerimenti bibliografici e gli spunti per le nuove letture. Grazie a voi e grazie soprattutto anche a Marco Pugliese. Beh, grazie per partecipare a questa conferenza, ringrazio la Valeria per le belle parole. Da un po' di anni in effetti che collaboriamo, dal 2011 addirittura, se non erro, quindi ero piccolissimo. Io ho scelto un argomento particolare che è a metà strada tra tre discipline, senza microfono mi sentite? No, che è a metà strada tra tre discipline: la storia, l'economia, la letteratura, che la mettiamo insieme alla storia, e la cronaca, in questo caso anche giudiziaria. Lì vedete che ci sono dei libri di Pasolini, sono libri che sono dedicati alle sue opere, perché nell'immaginario collettivo italiano, ma anche internazionale, ma forse internazionale è un po' diverso, ma rimaniamo in Italia, Pasolini è un personaggio visto come un intellettuale schierato, che addirittura è andato in contrasto con la propria parte politica per anche sue questioni personali, quindi per la sua omosessualità, che poi è stata utilizzata in maniera abbastanza vergognosa nella parte del delitto. Poi vedremo perché vergognosa, perché fu dato al delitto un risvolto di tipo superficiale. E perché fu dato quel risvolto? Fu dato quel risvolto che Pasolini aveva intuito in un suo scritto che poi fu pubblicato nel 1992, fu dato quel risvolto appunto per dare a questo delitto una chiave assolutamente non politica, cioè la narrazione generale, la narrazione mediatica di quel periodo avrebbe dovuto sottolineare come la casualità di questo fatto, cioè Pasolini si sarebbe messo d'accordo con un giovane ragazzo e poi sarebbe andata a finire male la questione. Giovane ragazzo che prima ammise, lui stesso nel 2008 disse per paura, prima ammise determinati fatti e poi invece quasi 30 anni dopo disse no, in realtà mi avevano detto altri di dire così, io ero dentro in macchina e ho sentito semplicemente le ruote andare sul corpo di Pasolini, che era ancora vivo, ma di fatto io non ho materialmente fatto nulla a Pasolini. Quindi la situazione è un po' ingarbugliata. In tutto questo però ci sarebbe una parte che ha a che fare con la letteratura, quindi lo scritto Petrolio, e qui mi aggancio a questo libro che invito a leggere, perché è uno dei pochi lavori che ho trovato, e c'è una sorta di summa tra tre personaggi, Mattei, De Mauro e Pasolini, quindi abbiamo un industriale, un giornalista e un poliedrico intellettuale come Pasolini, che sono stati tutti e tre uccisi, anzi uno è scomparso, ma si presume sia stato ucciso, uno è scomparso che è De Mauro. Mattei, chi non lo sa, ma penso lo sappiate, si dice che sia stato un incidente nel 1962, ma in realtà pare che si sia sotto dell'altro. E qui avrebbe potuto essercene un altro, che è Moro. Ok? Esatto. Quindi questi quattro personaggi, che sono legati a un altro personaggio che avrete sicuramente sentito, perché anche quello è abbastanza famoso, che è morto, però Licio Gelli, quindi la P2, e avrete sicuramente sentito parlare anche di Cefis, che era il numero 2 dell'ENI, e in questo libro di fatto viene ricostruita la figura di Cefis anche nel delitto Pasolini. E qualcuno qui si chiederà: che c'entra l'ENI con Pasolini? E la mia domanda retorica è: che c'entrava il Petrolio iracheno con Matteotti? E siamo su una linea temporale diversa, ma in realtà a livello storico siamo su due casi simili. Cioè ci sono dei casi di politica internazionale economica che hanno a che fare in maniera grossa con l'industria e l'autonomia energetica del nostro paese, e delle compagnie straniere che non hanno intenzione, o meglio, hanno intenzione di bloccare determinati disegni. Nel caso di Pasolini siamo negli anni 70, quindi abbiamo superato il boom economico, e l'ENI è grossa a quel tempo, e soprattutto da un punto di vista prettamente energetico l'Italia ha creato non pochi guai all'Occidente, perché sapete, Mattei era andato in Iran, e è cronaca di questi giorni che l'Iran anche a quel tempo era uno stato che era quasi obbligato a firmare dei contratti solo con inglesi e americani, Quindi nelle alte sfere iraniane uno come Mattei piaceva, perché Mattei non era un colonialista, non era visto come un colonialista, proponeva degli accordi a parità, cosa che non facevano gli americani, perché avevano il loro consorzio e quindi i paesi, chiamiamoli del a quel tempo si diceva del terzo mondo, oggi non lo sono più, l'Iran non è più nel terzo mondo, nel secondo mondo sarebbe, ma a quel tempo Mattei riuscì a mettere insieme i paesi che avevano grandissime risorse, come il petrolio, quindi come materie prime, l'Algeria ad esempio, e in parte la Libia e lo stesso Iran, li consorziò contro alle compagnie petrolifere internazionali. E lui partì da questo assioma: se riusciamo a stringere dei contratti per i fatti nostri, come Eni, riusciamo ad avere un'autonomia energetica nel prossimo futuro, perché noi venivamo dalla seconda guerra mondiale persa, dove, pensate, Mattei era stato nominato per liquidare l'AGIP. Quindi Mattei gli avevano detto: guarda, tu diventi il numero uno dell'AGIP, ma il tuo compito è chiuderla e creare un consorzio gestito dagli americani che gestisca gli idrocarburi italiani. Lui si era preparato a chiuderla, il problema è che i tecnici italiani lo avevano fermato e gli avevano detto: guarda che noi abbiamo scoperto un'infinità di pozzi di metano, ma li abbiamo tenuti chiusi volutamente per non farli cadere in mano tedesca durante la seconda guerra mondiale. Quindi Mattei fece un giro di questi pozzi e si rese conto, però lui si arrabbiò e disse: sì, ma io del metano che me ne faccio, perché eravamo ancora negli anni 40, quindi il metano non era ancora visto come una gran risorsa. Poi però gli spiegarono che ci potesse essere un guadagno ingente e quindi lui da lì decise di provarci. Ovviamente fu supportato in questo da parte della Democrazia Cristiana. Ok? Quindi, e che c'entra però Mattei con tutto il discorso di Pasolini? In realtà c'entra, perché in quegli anni di grande fiorire, anche rifiorire della nostra letteratura, della nostra cultura, nei circoli romani, dove girava anche Mattei, c'erano gli intellettuali che parlavano non solo, perché voi non dovete pensare agli intellettuali quelli un pochino pubblicizzati che abbiamo oggi, che scrivono il libro, fanno il tweet. A quel tempo c'erano dei circoli ancora culturali dove intellettuali, letterati piuttosto che filosofi, si confrontavano anche col mondo economico. Quindi Mattei, che era un visionario, oggi lo potremmo paragonare a Elon Musk della SpaceX, e lui, che era un visionario, amava rapportarsi con determinati personaggi non dell'area economica. Quindi queste vision, adesso noi diremo vision, queste visioni che aveva Mattei erano ben impregnate anche di cultura e letteratura, quindi non era solamente un disegno economico, era proprio un'espansione di nuovo della nostra nazione in maniera diversa rispetto a come era stato prima il fascismo, prima l'età giolittiana, eccetera eccetera. Noi abbiamo un problema in Italia, siamo un paese trasformatore, dobbiamo trovare delle materie prime da trasformare, quindi è fondamentale che a fare degli accordi con degli stati che abbiano delle risorse primarie, possibilmente senza far guerre. Questo era il fulcro principale di questa politica. Chiaramente persone come Pasolini, che erano vicine al PC, che avevano fatto parte anche del Partito Comunista, fecero un lavoro di apertura da parte dell'ex Unione Sovietica nei confronti dell'Italia. Quindi Leni riuscì anche a chiudere dei contratti in URSS, nell'ex Unione Sovietica, il che adesso sembra una banalità, ma siamo negli anni 50 in piena guerra fredda. E qui mi aggancio a un altro libro, perché anche in questo libro, che è di John Lewis Gaddis, che è un americano, che è uno scrittore che riesce in un libro così corto a spiegare la guerra fredda, non è da poco, e anche qui viene nominato Pasolini, paradossalmente, perché Pasolini rientra in una serie di ragionamenti della politica di Moro. Cioè, quello che nasce in quei circoli culturali negli anni 50 viene ripreso addirittura da Moro, che non per nulla era dentro nella Democrazia Cristiana, e con Leni, Mattei, si era agganciato alla Democrazia Cristiana. Lui non era di destra, di sinistra, di centro, era stato partigiano, era un po' un opportunista politico, sfruttava la politica, e era anche un corruttore, era un corruttore, perché sennò non riusciva a fare, non sarebbe mai riuscito a fare i suoi progetti, ma era tutto finalizzato alle sue visioni. Cioè, dovete vederlo così, non è che si corrompeva la politica per un suo tornaconto personale, eh? Era una sorta di corruzione di Stato allo Stato, è una questione molto diversa, e soprattutto il regime democratico, perché comunque c'erano le elezioni in Italia. E all'interno di questo circolo c'era anche Pasolini. Infatti, quando Pasolini scrive sul Corriere della Sera quell'articolo famoso che inizia con "Io so", si rifà a tutta questa storia. Quando lui scrive Petrolio e sa già che lui sarà ucciso, perché lo intuisce, non sa come, ma lo sa. Quando lui scrive Petrolio, che verrà pubblicato nel 1992, ma la critica letteraria italiana del 92 parlerà di Petrolio, e io qua ho trovato una breve sintesi di Giorgio Galli, parlerà di Petrolio come se fosse un normale romanzo, quindi un romanzo, guarda caso, con protagonista un petroliere, che si chiama Carlo e non è altro che Mattei. Quindi nel romanzo lui ripercorrerà la storia di Mattei, dicendoci come Mattei è stato ucciso, perché era noto nei circoli come Mattei era stato ucciso, era stato manomesso l'aereo, ci avevano già provato un mese prima, Mattei era diventato paranoico, quindi faceva controllare anche i sedili del proprio aereo, si erano seduti in aereo ed era uscito un cacciavite da un reattore. Quindi lì i piloti vennero sospesi, lui voleva poi i piloti dell'aeronautica militare, perché a quel tempo utilizzavano quelli, vennero sospesi, però probabilmente lì non c'entrava niente i piloti, era stato qualcun altro. Comunque un mese dopo riuscirono a far saltare per aria, infatti c'è quel contadino che venne intervistato di prima Chitto, raccontò di una palla di fuoco nel cielo. E la palla di fuoco non può essere stato un guasto meccanico, probabilmente è stato o un missile o comunque un caccia, o è successo qualcosa di strano con Mattei, perché appunto Mattei aveva avuto questo tipo di visione. Il suo vice Cefis, che era stato il suo braccio destro e aveva fatto un sacco di contratti eccetera, in realtà era filo americano e quindi aveva lavorato contro il suo stesso capo. Cefis fu uno dei più grandi nemici di Pasolini. Io sfido, ho letto gran poco se non in questo libro, che è scritto da Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, che sono due cronisti giudiziari, e è stato anche curato da Marco Travaglio, che quando vuole sa fare il giornalismo d'inchiesta oltre alle polemiche sul blog. In questo caso ha fatto giornalismo vero d'inchiesta e ha messo nero su bianco la teoria di questo non è neanche un complotto, perché è la teoria del golpe, i tre golpe che ci sarebbero stati in Italia dagli anni 60 agli anni 70, con il golpe bianco chiamato della P2, che poi è stato smascherato, ma non si capisce se è stato smascherato apposta per poi diventare ancora più piovra, oppure se effettivamente lì è successo qualcosa che non doveva succedere. Quindi Licio Gelli, che è una persona che non so chi lo conosce e ne ha letto la biografia, rimane un po' basito, perché lui era stato tesserato al Partito Fascista Federale, però di basso livello, nel senso che non aveva titoli di studio, ed era però riuscito sempre a ricoprire degli incarichi di un certo livello. Rappresentante di Materassi, per farvi capire il personaggio. E nel periodo fascista tecnicamente la massoneria non esiste, cioè era stata debellata, anche se poi sappiamo che i circoli non è vero che fossero stati debellati, però lui poi mantiene questi ruoli, finirà dentro nella massoneria e gli diranno a un certo punto di gestire una loggia, quella che conoscono tutti, la P2, la Propaganda 2, che guardate un po' chi l'ha fondata, Cefis. Quindi Cefis fonda la loggia, questo è tutto documentato, e vi dico, questo tipo di analisi hanno un nome e un cognome, si chiamano, adesso qua è scritto in inglese, comunque si chiama Intelligence Open Source, vuol dire che sono tutte le fonti, cioè sono fonti che trovate aperte, non c'è il segreto di Stato e non c'è più su alcune informazioni, su altre non c'è mai stato. Quindi ci sono anche dei software che dragano le informazioni nel web, perché, e questo mi riallaccio a questo terzo libro, scusate ma l'argomento è veramente complesso, quindi questi tre libri sono stati fondamentali anche se sono corti, come i servizi segreti stanno cambiando il mondo di Aldo Giannulli. Questo è importante perché qui vi spiega la tecnica di passaggio di informazioni tramite gli articoli di giornale. E quindi si parla di guerra politica e guerra di informazione. Attenzione, questo non è un libro da complotti, eh? Questo è un libro che ha delle teorie scientifiche come questo e ha delle prove tangibili che si possono trovare in rete. Non è il solito libro dei rettiliani, eccetera. Attenzione, siamo davanti a una... qui parla di guerra economica, destabilizzazione militare e terrorismo, dottrina Petraeus, che è nuovissima, l'hanno creata i democratici americani, l'ha creata Clinton, ed è una dottrina che era già nota agli americani nei tempi di Carter e che applicarono in tutti gli stati che conquistarono dopo Reagan. Quindi viene applicata di fatto e poi richiamata Petraeus, perché è un generale americano, che ha fatto la prova summa in Iraq. Come potete notare, l'Iraq è un disastro. Avete visto, no? Cosa è successo con Soleimani, eccetera. Tutto quel disastro lì nasce da un mazzo di carte, che fu un generale americano avere questa idea. Prendere tutti i rappresentanti del regime iracheno, di Saddam Hussein, e dargli un'importanza a seconda del mazzo di carte, quindi partivi dal re e finivi fino al fante. Questo sistema cosa fa? Distrugge completamente gli apparati culturali e politici del paese conquistato, rendendolo totalmente nudo e in balia di una popolazione che non sa da che parte sbattere il naso e che o finisce nell'ISIS, più comunemente è, oppure finisce ad andarsene, perché lì non c'è, ed è quello che è stato provato, tentato in Ucraina, eh. Abbiamo fatto due conferenze qui proprio sull'Ucraina. Attenzione, perché questa dottrina Petraeus è pericolosissima ed è il contrario della dottrina Marshall, cioè di quella dottrina americana che dà al paese sconfitto soldi e lo fa recuperare in sicurezza e non distrugge gli apparati. Avete ancora l'INPS in Italia? Sì, perché in Iraq l'avrebbero distrutto l'INPS, perché sarebbe stato distrutto tutto quello costruito durante il regime, nel nostro caso fascista e nel loro caso batista, un regime non islamico. Quello che ci dovrebbe far sorridere è che Saddam Hussein era un laico. Ok? Quello fa un po' sorridere, perché noi siamo andati a fare la guerra a un regime laico e poi però ci siamo lamentati che questi sono andati con gli islamisti per forza, perché gli islamisti gli dicevano: guarda che ti liberiamo dagli americani. Quindi, come vedete, tutto questo che apparentemente è lontanissimo da noi come la Libia, in realtà ci rappresenta da molto vicino, perché uno come Pasolini, siccome sapeva che l'avrebbero fatto fuori in qualche modo, si è inventato il romanzo Petrolio. Siccome Pasolini era molto scaltro, quello che noi, leggendo quel romanzo, fossimo negli anni 70, che cosa salta fuori nella critica letteraria? A parte che anche nel 92 è saltata fuori salta fuori lo scandalo sessuale, perché Pasolini fa... In un pezzo, in una parte del romanzo, fa praticamente copulare questo Carlo con altre 10 persone, uomini. Quindi questo sarebbe stato fonte di scandalo enorme negli anni 70. Stiamo parlando degli anni 70, dove anche il divorzio era in discussione, se ricordate bene, furono le donne del PC, con lo stesso Pasolini, che si misero contro il PC dicendo: adesso voi vi schierate contro il divorzio, perché i papaveri del PC dalla Russia avevano avuto l'ordine di andare a favore del divorzio, eh? Queste sono delle notiziole che poi vengono dimenticate nell'etere, però in realtà noi dobbiamo pensare che eravamo in un periodo di guerra fredda, quindi il PQS, che Berlinguer conoscerà molto, molto da vicino, perché tentò di farlo fuori in Romania, perché lui parlò di eurocomunismo e in Russia qualcuno disse: come? L'Unione Europea era la criptonite per Mosca ed è la criptonite anche per Washington. Quindi il PC era anti-europeista ed è per quello che i transfughi di quel partito oggi non si capisce bene la storia, perché effettivamente loro hanno una matrice che non può essere europeista per statuto, diremmo in politica. Quindi è molto complesso ed è molto complesso da far digerire soprattutto ai vecchi comunisti. Infatti, perché molti vecchi comunisti oggi dicono non mi ritrovo? Perché hanno una mentalità molto vicina a quella che era la mentalità sovietica prima del 1990. Attenzione, noi avevamo il più grande partito comunista dell'Occidente in Italia. Cioè non c'era un partito così organizzato e così organizzato a livello economico, che infatti anche Craxi quando lo interrogarono disse: ci sono dei partiti che hanno delle, sembra che siano infiniti i fondi. Lui aveva buttato l'amo lì perché è stato accusato lui, allora ha detto siamo tutti ladri, è famosa, no, quella. E, però effettivamente l'apparato capillare del PC era stratosferico, addirittura era copiato dal PQS, perché il PQS non aveva un apparato così capillare. Ce l'ha il partito nazionale comunista cinese, che ha copiato l'idea italiana di inserirsi dentro nell'economia a livello di Stato, che è l'idea che aveva Pasolini. L'idea del PC che veniva discussa ancora con Pasolini all'interno, prima che si mettesse a litigare, era questa: comprare le aziende di Stato e ficcarle dentro, cioè avere un partito unico, che era quello comunista, e mettere all'interno dello statuto delle partecipate dello Stato che fossero anche del Partito Comunista, quindi del popolo, perché ricordatevi che negli anni 50 il PC rappresentava il popolo, quindi in caso di vittoria della rivoluzione avrebbe dovuto non portare a un regime di duopolio ma di monopolio con il popolo come in Russia. Questi sono gli obiettivi del PC dal 46 in poi, pur nella Costituzione italiana, però l'obiettivo principale era questo, era un monopolio del popolo. Queste sono cose che devono essere molto chiare quando si parla di PC, perché sennò si fa confusione. Infatti nel 56 ci furono comunisti italiani che andarono contro al PQS e dissero: no, momento, però quello che state facendo in Ungheria, quello che poi verrà fatto a Praga, lo stesso Pasolini sarà critico e dirà: calma, per me il marxismo è un'altra cosa, non è stalinismo, non è dottrina Khrushchev. Qui siamo in piena dottrina Khrushchev. Khrushchev diceva chiaro e tondo: se gli americani hanno sterminato gli indiani, io posso sterminare tutti gli altri. Non è che diceva gli americani sono cattivi, quindi io divento più buono. Cioè era una dottrina politica, e secondo me che non è che è criticabile oggi, perché eravamo negli anni 50 e quindi poteva essere speranza per qualcuno e per altri meno. Chi magari era sotto a quei regimi ne aveva di meno, qualcuno qui in questa sala si era poi lamentato con la nostra esposizione, mi ricordo, perché aveva vissuto in Albania durante il periodo di conquista sovietica e aveva fatto presente che non fosse bellissimo vivere in posti gestiti dal Partito Comunista Sovietico. Quindi, come vedete, ognuno poi ha la propria realtà quotidiana con cui far fronte. Comunque, tornando a Pasolini, lui si mette in questo guaio gigantesco circa nel 1968, dopo un fatto molto importante in Italia, dopo il cosiddetto Piano Solo. Se qualcuno ne ha sentito parlare, fu questo piano che avrebbe dovuto portare al golpe in Italia, trasformando l'Italia in un paese simile alla Grecia. Alla Grecia parliamo non economicamente, ma a livello politico, cioè avremmo dovuto avere una giunta militare che avrebbe gestito le nostre risorse economiche fino a che non fossimo pronti per tornare ad essere un paese di un certo tipo, perché ci eravamo dislineati da quello che erano gli obiettivi della NATO. Questo successe nel 1964 e fu scongiurato all'ultimo momento, perché tra gli analisti americani e britannici fu detto e fu spiegato che in Italia sarebbe scoppiata una guerra civile, perché chiaramente elementi come Pasolini, che in Grecia non avevano, perché in Grecia non avevano una base intellettuale così forte da poter andare contro i colonnelli, di fatto, avrebbe creato in Italia invece una sorta di di guerra spontanea, anche di persone considerate neutre, perché poi sapete la CIA ha orecchie dappertutto. Si era sentito e mormorato che l'opinione comune in caso di golpe sarebbe stata contro i golpisti, quindi non vai a fare un golpe se sai che i golpisti poi vengono messi in discussione dalla stessa popolazione. Quindi questo era molto noto sia negli ambienti culturali che negli ambienti politici. Infatti il Piano Solo non fu attuato, il piano Borghese nemmeno, perché Borghese arrivarono anche i carri armati. Qualcuno che abitava a Roma, io insomma, ho la testimonianza diretta che quella notte i carri armati uscirono dalle caserme e poi rientrarono. Quindi il golpe fu stoppato a metà. Nessuno sui giornali raccontò esattamente cosa successe in quelle notti. Era già pronto il discorso da dire a reti unificate, alla RAI, per esempio. Quindi siamo in un periodo così di tensione, e cosa fa Pasolini? Pasolini denuncia continuamente, con una serie di metafore, con metafore di tipo letterario, che in Italia si sta compiendo un golpe bianco. Cioè l'Italia prima, e spiega molto bene la strategia della tensione che si accompagnerà fino agli anni 90. Cosa dice Pasolini? Dice che questo profondo nero non è riferito al fascismo, è riferito al petrolio. Invece molti libri fuorvianti parlano di pericolo nero. In realtà Pasolini ha capito perfettamente che gli estremisti di destra, perdonatemi le due paroline che dirò adesso, sono gli utili idioti dei servizi segreti. Cioè, in un primo momento verranno pagati dai servizi segreti italiani e esteri per fare delle stragi, alzare la tensione, la gente vuole sicurezza, ok? E quasi scontatamente dice: ma sì, va bene anche se arriva un presidente dittatore, come è successo col fascismo. Il fascismo di fatto i fascisti lasciavano che le squadre rosse andassero a fare cagnara per poi intervenire a mo' di polizia, e quindi il poliziotto diceva: vabbè, io tra i due preferisco i neri, perché tutto sommato sono sulla mia linea di pensiero. Il delitto Matteotti destabilizzò il fascismo, però in realtà la gente comune non è che avesse una grande percezione in quel momento di quanto fosse pericoloso la dittatura, ma semplicemente diceva: beh, tra i due io per il momento mi scelgo loro, anche se le squadre rosse avrebbero dovuto difendere i contadini. Solo che poi cosa succedeva? Che menavano i contadini, anche loro razziavano, e il famoso biennio rosso si trasformò in un disastro funzionale al fascismo. E purtroppo il Partito Comunista ebbe delle grosse colpe in quel caso, perché invece di abbassare la tensione e politicamente denunciare il fascismo, come fece Matteotti, attenzione, era un avvocato, non era un attivista così da quattro soldi, lui era un avvocato, aveva in mano le prove che nel Partito Nazionale Fascista si erano presi dei soldi dalla famosa questione Standard Oil. C'erano delle tangenti che erano state date al Partito Nazionale Fascista da parte di determinate questioni petrolifere che arrivavano dall'Iraq. Infatti Mussolini, per non avere problemi, rifiuterà le forniture di petrolio dall'Iraq per paura che gli inglesi tirassero fuori quel filone. Che poi sia venuta un'anarchica irlandese in Italia, Violetta Gibson, quasi avesse ucciso Mussolini, è un po' strano, dopo tutto quel filone che ci riportò fuori dall'Iraq. Arrivò qualcuno dall'Irlanda tentando di uccidere Mussolini, anche perché Mussolini aveva in mano pure lui delle carte che parlavano di tangenti al contrario. Quindi, per farvi capire perché aveva questa grande amicizia con Churchill, mica perché erano solo amici, non è che Matteotti queste cose non le sapesse. Come conosceva Dumini Matteotti. Quindi, ecco, su Dumini sarebbe da fare una conferenza, perché è assurdo il personaggio. Ma tornando a Pasolini, la storia si è come ripetuta, perché Pasolini si trova in mezzo a delle questioni di carattere internazionale elevatissime. Cioè lui si trova tra americani, russi, mondo arabo, sette sorelle, le famose sette sorelle del petrolio, e in più si trova di fronte a un'opinione pubblica italiana totalmente analfabeta in questo caso, perché la gente comune non può avere delle nozioni e mettere insieme, quasi nessuno metterebbe insieme De Mauro, Pasolini, Mattei e Moro, perché ci sembrano dei delitti completamente sfocati, no? Uno dall'altro, invece sono purtroppo sulla stessa linea. Quindi è importante leggere, andare a rileggere tutti gli articoli, che poi non sono molti. Ricordatevi che Pasolini scrive dal Corriere della Sera, che è un giornale che Cefis ha tentato di comprare, perché negli anni 60 in Italia inizia un altro giro che sarà abbastanza sviluppato negli anni 80. I grandi imprenditori capiranno che per mettere in giro le loro idee sia utile comprare i giornali. Mattei comprerà dei giornali, il Tempo, quindi diventerà il megafono dell'ENI, si doterà di sala stampa super moderna, cioè l'ENI diventerà un ente che praticamente ha una propria stampa, propri servizi segreti, propria stampa, propria sicurezza, propri generali dell'esercito che rispondono a Mattei. Se c'è un problema in qualche stato, tipo l'Algeria, si chiama Mattei, non ci va il ministro degli esteri. Perché adesso in Libia abbiamo dei grossi problemi? Perché l'ENI è stato lasciato fuori. Chi è che ha fatto tutti i contratti in Libia e si è messo a parlare con le tribù? No, non solo Gheddafi, Gheddafi è l'ENI. Quindi lasciare fuori l'ENI da questa partita è rischioso sia per i libici, perché anche i libici non hanno i contatti, perché sono come noi, non è che poveretti loro abbiano, i libici delle città hanno dei grossi problemi. I libici delle tribù vivono sul petrolio e quindi gestiscono loro i contratti, quindi chi è convinto che in Libia si parli di al-Sharrai e di Haftar non ha capito niente. In realtà quelli sono due capi tribù delle tribù più grosse, ma non hanno un capo, è per quello che stanno litigando, perché sono convinti di farsi una guerra fratricida. Lì bisognerebbe invece mettersi d'accordo con tutte le tribù, quindi non è che se noi ci mettiamo d'accordo con uno o l'altro o con tutti e due abbiamo risolto il problema, perché c'è tutto l'altro problema del petrolio e c'è una fortissima guerra in questo momento in Libia, non tanto fra le tribù, non tanto quei discorsi che vedete in televisione. Perché Minniti è corso in Libia e ha risolto? Secondo voi è credibile che un ministro vada in Libia e risolva? Ha risolto perché in quel caso lì ha chiesto aiuto all'ENI. Lo stesso Matteo Renzi si fece scappare in una intervista con Vespa, sì parlo dell'ENI, dei servizi segreti, cioè lui addirittura ha mischiato servizi segreti e ENI ed era appena arrivato, non si era ancora reso conto della forza che ha l'ENI a livello internazionale, il peso. Ci sono degli stati che parlano solo con l'ENI, poi con l'Italia, non so. Però l'ENI è lo Stato italiano. Quindi questa creatura, il cane a sei zampe, come si dice in gergo, è una creatura particolare creata da Mattei, ancora in vita e in piena salute. Non si sa in questo momento cosa stia succedendo esattamente. Non pensiate che si sia deciso a Berlino il futuro della Libia, ma si sarà deciso da altre parti, questo sicuramente. Quindi per farvi capire che la situazione è molto attuale e non è assolutamente legata. Però tornando al nostro povero Pasolini, lui in petrolio ci fa, e petrolio sarebbe da leggere in tutte le scuole perché è l'esempio di cronaca addirittura futura messa per iscritto, cioè in petrolio lui ci fa tutta la storia di Mattei e ci dice come andrà a finire, cioè con l'autore dello scoop che non c'è più e con un paese, l'Italia, che è completamente assoggettato a determinati poteri che lui non chiama poteri forti, ma che noi oggi potremmo dire poteri forti, i famosi poteri, quelli che noi diciamo poteri forti, quali sono? Nessuno li conosce. In realtà c'è questa mano longa, una volta si diceva del Vaticano, aveva questa mano longa che non si vedeva ma comandava, e adesso questa mano longa che comanda su certi stati e in certe trattative, che c'è, perché abbiamo degli esempi. E forse qualcuno si era spaventato per il gesto di Trump nei confronti di Soleimani, gesto insomma, questo ha ucciso una persona su suolo che non è neanche americano, però come vedete non è successo nulla, perché il regime iraniano non ha nessuna intenzione di muovere una guerra verso una potenza che potrebbe portare a peggiorare tutto quello che c'è adesso in Iran, perché i contratti del petrolio poi sarebbero poi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vincerebbero al 99%, e sì, sarebbe un nuovo Vietnam, ma guardate che anche ai comandi americani non è che interessa più di tanto che ci sia gente che muore o non muore. L'importante è chiudere i contratti. In Afghanistan gli americani si sono accordati, anzi è notizia di qualche settimana, con i Taliban. Cioè si sono accordati con quei personaggi che nel 2001 avrebbero creato l'11 settembre e soprattutto in Afghanistan mettevano le donne al muro perché andavano dalla parrucchiera. Questo sta succedendo in Afghanistan, quindi non ci dobbiamo meravigliare. E qui non c'entra niente repubblicani, Trump, democratici. Ripeto, la dottrina Petraeus è stata creata dai democratici americani. E difatti abbiamo dei pessimi esempi di dottrina americana applicata in stati anche dell'Africa piuttosto che dell'Asia, eccetera. C'è oggi un altro tipo di visione che era un po' più vicina a quella di Pasolini, che è quella cinese e quella russa, cioè non una conquista diretta dei territori, ma un'influenza economica con degli attori di secondo o terzo livello a seconda del territorio che vai a conquistare. Certo che questa conquista è complessa, perché devi avere sul terreno delle persone che lavorano di fatto per i tuoi tramacci, chiamiamoli così. Gli americani fanno prima perché loro, distruggendo un paese da un punto di vista militare, fanno studiare dalla parte loro poi tutta la classe dirigente, che poi rimettono in quel paese, e di conseguenza il paese è alleato loro e per forza, non hanno nessuna alternativa. In Estonia, Lituania, Lettonia sta succedendo questo genere di conquista, e era molto nota anche negli anni 70. Infatti Kissinger fu uno dei fautori di questa guerra senza morti, tecnicamente senza armi, eccetera, ed è una dottrina che al telefono mi ha spiegato più volte anche Luttwak, che è un falco del Pentagono, e che però molto serenamente ti dice chiaro e tondo che nessun americano, e parlo di americani di potere, non di gente comune, perché anche lì non è che gli americani sono dei pazzi, ma nessun americano di potere, quando arriva alla Casa Bianca, si fa uno scrupolo sul bombardamento di un paese o di un altro se c'è di mezzo l'interesse americano. Non si fecero problemi gli americani nemmeno nelle grandi uccisioni di Stato che ci furono in Italia. Voi pensate, l'uccisione di Pasolini portò addirittura Oriana Fallaci ad essere interrogata, e Oriana Fallaci fu torchiata in quell'occasione dalla polizia in maniera che oggi diremmo assurda, fu torchiata e non rilevò la fonte della sua soffiata, dicendo: guardate che io so che cosa è successo con Pasolini. Lei rimase tutta la vita con questa, è che probabilmente fu vista come una figura di secondo o terzo livello. In questo genere di operazioni ci sono obiettivi di primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello. Se sei nel quinto e nel quarto non ti ammazzano, però ti rovinano, ci può essere uno scandalo, tutti hanno delle amanti a certi livelli, funziona così, o degli amanti se sono... In quel caso lì, Pasolini viveva su secondo e terzo, quindi o lo facciamo fuori del tutto, casualmente, oppure lo roviniamo e facciamo fuori, che quello è il primo livello. Infatti l'idea era ucciderlo e infangarlo, quindi una damnatio memoriae più una morte fisica. Ed è quello che in parte accadrà, perché molte persone... E anche persone per bene, a domanda semplice, cosa pensi di Pasolini? Ti diranno: ma a me sta simpatico, però mi pareva un po' vizioso. Perché? Perché hanno letto tutta quella saggistica e quella mediaticità che c'è stata dal 75 in poi, che dice e sottolinea che lui fosse in quel campo, all'idroscalo, fosse in quel campo perché aveva adescato un ragazzino. Invece era stato lui adescato da questo, che gli aveva fatto delle proposte strane, e che lui qui, in alcuni appunti che sono stati ritrovati, dice che va a questo incontro per capire con chi ha a che fare. Non può mettere su queste basi un incontro amoroso, è impossibile, se non altro perché Pasolini la maggioranza degli incontri amorosi ce li ha con la sua cerchia di studenti e non ce li ha di fuori della cerchia. Infatti Sgarbi in un'intervista lo spiegava molto bene questo, diceva: guardate che è una cavolata dire che facesse parte, perché non dobbiamo pensare a Pasolini come è stato ricostruito. Qui è stato ricostruito, e Giorgio Galli prende fa il copia e incolla, qui è stato ricostruito che lui è andato a mangiare una pizza, è andato a mangiare una pizza, poi ha incontrato questo ragazzotto, il ragazzotto gli ha fatto una proposta di cui noi non sappiamo nulla, e poi Pasolini alle 3 di notte si è presentato probabilmente per pagare questo ragazzotto. Non è molto credibile che un personaggio pubblico del livello di Pasolini sia andato così da solo alla mercé. Poi lì sapete che sono spariti anche dei documenti che lui aveva dietro, perché quella sera aveva avuto un incontro molto particolare, quindi questo è anche da dire, quindi quell'1 e il 2 novembre la data non è casuale, qualcuno ci ha visto anche qui qualcosa di strano, perché pare che quella parte di Democrazia Cristiana che non vedeva bene l'accordo che si voleva fare tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana si potesse invece tradurre in accordo grazie a persone come Pasolini, che erano state epurate dal PC, ma che comunque rappresentavano l'istanza di sinistra e quindi l'istanza popolare maggioritaria dell'Italia di quel tempo, perché l'Italia di quel tempo si stava avviando verso il divorzio, avviando verso l'aborto e avviando verso quel compromesso storico che Moro non riuscirà a realizzare. Nel frattempo che Moro lavora al compromesso storico, Gelli gestisce la P2 creata da Cefis, che vuole che l'Italia rimanga a stretto legame con gli americani, e recluta praticamente generali, servizi segreti, recluta intellettuali, imprenditori come Berlusconi, che vengono tirati dentro con la promessa di poi poter fare determinati acquisti, in quel caso il discorso delle frequenze TV. Siamo in regime di monopolio TV e la TV ancora non è vista come un canale di informazione come il giornale, però sta arrivando. Infatti se facciamo 2+2, se voi leggete il piano per l'Italia democratica che è creato dalla P2, voi arrivate al 2008. Tutto quello che c'era scritto nel piano democratico viene fatto. Quindi il primo obiettivo era distruggere i partiti, mi pare che ci siano riusciti. Il secondo obiettivo era non dare dei leader, cioè dare dei leader liquidi al paese, perché col leader liquido, il leader liquido tu lo puoi distruggere quando vuoi, è il leader solido che ti crea dei problemi perché ha delle basi, perché ha dietro uno staff di un certo tipo. Oggi abbiamo dei leader molto liquidi, cambiano idea come il giorno e la notte, leader molto liquidi, e una politica totalmente sfilacciata da quella ideologica che può essere sbagliata da una parte, ma dall'altra le persone in certe ideologie crescono comunque con dei principi che vuoi che siano sbagliati, cioè che sia il principio comunista o che sia il principio democristiano, una persona prima di fargli cambiare idea, se ha nella testa il principio democratico, il principio della libertà, da una parte c'era il cattolicesimo, dall'altra il marxismo, però erano dei principi sani ideologicamente, non sicuramente oppressivi, diventa più complesso. Infatti il Partito Socialista, perché lo odiavano tutti? Perché il Partito Socialista era riuscito a scavalcare quella forza, no, che c'era di d'urto tra democristiani e comunisti, e proporsi come forza di sinistra riformista in modo che si potesse dialogare con la Democrazia Cristiana. Infatti Craxi divenne con poca percentuale ministro e primo ministro. Questo fa parte di un disegno del dopo Moro che Craxi sa che è rischioso, e Craxi di fatto fa quello che avrebbe dovuto fare Mattei. Infatti perché si va a cacciare nei guai? Perché va a difendere i terroristi palestinesi che uccisero l'ebreo americano sull'Achille Lauro con Sigonella, si caccia in quel guaio lì. Ma Reagan, è un po' riduttivo dire che se la fosse presa perché i Delta Force sono stati circondati dai carabinieri, se l'è presa perché Craxi era andato a rimettere mano ai contratti energetici italiani del Medio Oriente. L'Algeria, appena saputo che Craxi aveva in mente di fare quello che voleva fare Mattei, stranamente in Algeria ci fu subito turbolenza, perché sapete, Mattei ricevette un sacco di lettere da una sigla algerina che avrebbe rivoluto la Francia come potenza coloniale in Algeria. Sapete, la guerra d'Algeria è stata un disastro, no? Gli italiani si erano inseriti tra Algeria e Francia e avevano promesso agli algerini autonomia in cambio dei contratti. Dicevano: guarda, ti gestiamo, ma noi non ce ne frega niente di venire qua e far come i francesi. L'importante è che voi... Ovviamente Mattei fu minacciato. Pensate che quelle minacce, forse la mano armata di quell'uccisione, arrivò da quei... i servizi segreti italiani fecero così, e Mattei probabilmente pagò con la vita quell'intromissione. Ok, quindi se da una parte lui favorì l'interesse italiano, sfavorì quello francese, e quindi i francesi diedero il via a un'operazione molto pericolosa, ma Ustica lì è palese che si volessero interporre gli americani tra l'Italia e i paesi arabi. L'Italia ha un credito enorme nei paesi arabi, tuttora ci sono paesi arabi che ricordano ancora quei periodi, ed è un credito che noi abbiamo perso a pezzi quando ci siamo messi a fare le guerre dal 91 in poi. Anche la guerra del Golfo è il primo mattoncino di quel mondo unilaterale che gli Stati Uniti hanno creato dopo il 90, convinti che ormai con l'Unione Sovietica a pezzi si potesse un attimino gestire in maniera del tutto globalizzata qualsiasi cosa. Hanno venduto la globalizzazione come un qualcosa di positivo, quando a livello economico sappiamo perfettamente che ha fatto schizzare i debiti pubblici, che sono diventati poi il cappio finto della finanza creativa, che ci ha portato alla distruzione totale delle industrie di Stato e delle aziende di Stato, che adesso addirittura chi l'ha distrutta si è messo a dire negli ultimi giorni: no, però effettivamente abbiamo fatto degli errori. I cinesi invece, che hanno inserito, se qualcuno qui legge il Financial Times, io lo faccio purtroppo una volta in settimana, i cinesi hanno appena gestito col loro partito tutte le aziende di Stato, così non hanno il problema. Il partito cinese è proprietario di tutte le aziende di Stato cinesi, quindi viene la domanda spontanea: come fa la Cina a essere dentro nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dato che sarebbe vietato che un partito politico possedesse delle aziende di Stato? Ma Trump non dice mica niente, perché funziona, non gli frega niente, gli interessa che i cinesi stiano lì e non si introducano nelle faccende africane e nelle faccende asiatiche. Sarà difficile tenerli lì, perché comunque per il momento li tiene lì la deterrenza americana, perché gli americani hanno un potenziale bellico che tecnologicamente è superiore a quello cinese, e lo stesso Obama aveva già predisposto le nuove portaerei che adesso stanno andando in tilt, perché pare che il sistema inserito nelle portaerei sia cinese. Questa è la globalizzazione che può fregare. Il caso Huawei non è distante da questi casi qui che abbiamo visto. Il problema è che nel caso di Pasolini ha fatto due errori fondamentali. Il primo: lui era circondato di amici che erano degli intellettuali, non erano uomini d'arma, e quindi non avevano un occhio lungo su determinate questioni. E la seconda è che non era molto simpatico agli apparati statali. Gli apparati statali erano in mano ancora a moltissimi ex gerarchi, o comunque persone legate alla vecchia mentalità, e soprattutto erano in mano alla Democrazia Cristiana. Fanfani fu un grande oppositore, un oppositore segreto di Pasolini, Fanfani, che nell'86 però cosa disse? Disse: secondo me Pasolini fu ucciso per motivi politici. In una conferenza lui disse chiaro e tondo che secondo lui fu ucciso per motivi politici. Se ricordate anche la diatriba anche con Cossiga, quando Cossiga disse: ma Moro, io ho intervistato Cornacchia, ma forse lo riusciremo a portare in biblioteca, è che è una persona con cui si rischiano 2-3 denunce ogni volta che gli fai una domanda, perché lui è ormai ha 80 anni, lui ha trovato il cadavere di Moro, e pochi giorni dopo l'uccisione di Moro ha perso è un generale dei carabinieri in pensione dei servizi segreti italiani, quindi lui era dei servizi. Il suo compagno d'arme è stato ucciso in un bar a Roma, me l'ha anche fatto vedere questo bar, con un colpo in testa mentre stavano bevendo il caffè, nel 70 e rotti e qualcosa. Quindi è un personaggio di questo tipo. Lui ovviamente arriva fino a governo Prodi, cioè ne ha per tutti, governo D'Alema, governo Berlusconi, lui parla di tutto, e lui ha smentito di essere stato nella P2, però la tessera sua c'era, quindi anche quella domanda, perché lui era della P2, era un piduista, però lui ha smentito, però la tessera c'era. Quindi tralasciando questo, però il suo primo libro è molto interessante, il suo secondo io l'ho letto, però non è editato, non so chi in Italia si prende la briga di editarlo, perché è veramente un libro denuncia con dentro dei fatti che, se fossero e dovessero essere accertati, beh, qui bisognerebbe tornare indietro con la magistratura e mettere in gabbia qualcuno, perché sono dei fatti di una gravità che io non posso ripetere neanche in una sede come questa pubblica, perché veramente potrei passare anch'io dei guai. Sono dei fatti inenarrabili. Comunque questo generale mi raccontava che, e io mi sono stupito, un generale dei carabinieri, dei servizi segreti, che conosceva perfettamente tutte le opere di Pasolini. Non che io voglia dire che i carabinieri siano ignoranti, però è un po' strano che un generale dei carabinieri o della Guardia di Finanza o il suo amico conoscessero a menadito certi scritti di Pasolini, soprattutto di Petrolio. E allora qui mi riaggancio a questo libro che lui mi ha confermato, ovviamente lui conferma e non conferma a seconda del suo anche momentum, mi ha confermato che effettivamente alcune teorie che si trovano in questo libro siano corrette, perché chiaramente non è che io questo libro l'ho preso come oro colato. Però sul discorso degli articoli di giornale o di giornalisti che scrivono degli articoli e non possono dirti la verità perché sennò li fanno fuori, ma te la dicono lo stesso in un certo modo, ci sono delle tecniche per capire che tipo di messaggio c'è dentro quell'articolo. Questi sono fatti accertati che ovviamente il giornalista non può ammetterti, perché sennò finisce in un grande guaio e gli chiudono il giornale, però che effettivamente possono dare. La narrazione economica, per esempio, che è assai rigida, ho scritto anch'io degli articoli economici, è rigidissima, perché se tu ti metti a dire che la tal azione fa schifo ti possono denunciare perché c'è l'aggiotaggio, questo, quello e quell'altro. Ecco, in quel caso lì ci sono degli articoli che mi spiegavano erano stati proprio creati ad hoc durante la grande crisi, non parlo dell'Italia, sto parlando degli Stati Uniti, per aumentare la pressione sulla banca, che poi è crollata. Perché io faccio sempre un esempio, e che faceva anche Pasolini, attenzione, noi tutti viviamo in un mondo di competizione, quindi adesso c'è Facebook, c'è Internet, dove noi facciamo delle recensioni, e quelle recensioni di un locale ci dicono se quel locale ha un bel funziona o non funziona. Però anche nella vita di tutti i giorni noi viviamo di recensioni degli altri. Allora, se io creo una narrazione dove tu sei messo al centro e fai schifo, amplificata dai giornali, tutti diranno che fai schifo. Quindi se c'è un'azienda da colpire, e purtroppo il sistema che abbiamo visto a Roma in questi giorni con la magistratura, che ci sono stati dei problemi, era questo, cioè era colpire un'azienda a livello sleale, ovviamente, però va dimostrato anche a livello narrativo, perché se io dico che l'altra azienda fa schifo, che forse ha rubato, che insinuo il dubbio dicendo non lo so ma eccetera eccetera eccetera, questa azienda, se è quotata in borsa, avrà dei problemi molto molto pesanti. Per concludere il discorso di Pasolini, perché ripeto, un'ora era complessa, noi faremo probabilmente un altro incontro dedicato a Mattei e Pasolini, perché secondo me ci vogliono 2-3 conferenze o comunque incontri per capire quanto sia stato complesso questo dialogo tra Pasolini e se stesso e gli italiani, perché io l'ho vista io sinceramente in questi 6 mesi che ho fatto questo lavoro, che adesso sembra forse banale perché io l'ho un po' banalizzato, perché non potevo andare, cioè veramente diventa troppo complicato questo lavoro di rilettura dei suoi appunti originali o comunque di suoi fatti che ci sono stati e conclamati, mi ha fatto un attimo rivivere la sua solitudine, perché questo è stato un uomo praticamente da solo, che nemmeno i suoi amici letterati avessero chiaro cosa stesse facendo. Loro erano convinti che fosse una denuncia letteraria e che lui fosse omosessuale e si sentisse cioè anche lo stesso, anche Moravia non aveva ben colto la questione economica che c'era dietro, vedeva in Pasolini un personaggio molto intelligente, scalto, poliedrico, che però viveva male questa omosessualità. Cioè, pensate che la narrazione riuscì perfino a mettere il dubbio che lui fosse semplicemente un innamorato, una sorta di innamorato non corrisposto, anche personaggi come Moravia, che voglio dire avevano una certa cultura, avevano una certa testa, ma era questa la narrazione che passava di Pasolini, che fosse un personaggio un po' frivolo, da quel punto di vista, che fosse di un'intelligenza superiore alla media, che scrivesse delle cose bellissime, ma che queste cose fossero dei semplici atti letterari, e che la sua morte fosse legata a un'avventura andata male. Cioè, se io avessi fatto una conferenza su Pasolini e avessi parlato solo esclusivamente di come l'hanno ucciso, voi sareste usciti da qua dicendo: vabbè, questo era bravissimo, era intellettuale, però insomma la carne è carne, i soliti discorsi che si fanno anche al bar. In realtà invece Pasolini è un alfiere dell'Italia che non voleva determinate terminazioni di livello dittatoriale. Infatti lui parla prima di fascismo e di funzionalità del fascismo e poi funzionalità dell'antifascismo. Ma attenzione, non è che gli antifascisti hanno fatto gli attentati, no? Lui dice che la prima parte quelli di destra vennero dati i soldi per fare gli attentati, cioè li finanziarono, questi fecero gli attentati, fecero il discorso della tensione. Poi la tensione non funzionò perché gli italiani non avevano nessuna intenzione di avere il golpe, e furono lasciati, siccome questi dovete pensare a gente come Borghese, che era stata, si era sentita usata, questi hanno ripreso a fare gli attentati a briglia sciolta, e i servizi segreti italiani lasciavano fare, di modo che passasse un terrorismo di matrice non più di destra ma di sinistra. In realtà erano sempre quelli di destra che li facevano, eh? Cioè il terrorismo cosiddetto di sinistra partirà poi con le Brigate Rosse, dopo, molto dopo. In realtà parliamo di terrorismo nero fino al 75, no, perché qualcuno in maniera molto furbesca su Facebook ho visto che ha detto: ma anche Pasolini ce l'aveva con gli antifascisti. Questa è una gran cavolata. Lui non aveva detto che erano stati gli antifascisti a organizzare gli attentati. Lui aveva spiegato che cos'era la strategia della tensione. Prego. Parlando, brigate... no? Allora, le Brigate Rosse io le avevo gestite simili al BAS. Ha presente il terrorismo di qua? Allora, un nucleo di partenza ideologico, tra virgolette puro, cioè dei marxisti che si ritrovano intorno a un tavolo e dicono: l'unica cosa che ci rimane è la rivoluzione armata, con delle regole, andiamo contro le cose e non contro le persone. È quello che diceva anche Klotz: butto giù i tralicci ma non ammazzo gli italiani. Purtroppo poi cosa succede? No, nell'origine l'aveva detto, bisogna dare atto. Poi cosa succede però? Che questi gruppi armati non rimangono così liberi di fare quel che vogliono, vengono infiltrati o dai servizi, deviati magari, che possono essere stranieri, che possono... Addirittura il BAS fu finanziato dai sovietici, perché i sovietici in tutto il mondo finanziavano i gruppi rivoluzionari. Non ti chiedevano neanche che tipo di rivoluzione, ti dicevano: te sei rivoluzionario, sì, ti diamo un po' di armi. Quindi fu finanziato, cioè, ok? Le BR, nella parte di Moro, furono finanziate non si sa da chi e infiltrate non si sa da chi. Si sa però che un agente del KGB, fino all'ultimo momento, fece di tutto, questo me lo confermò Cornacchia, per dire agli apparati italiani che Moro sarebbe stato ucciso. Quindi è molto difficile che ci fosse dietro la Russia, che ci fosse dietro il KGB, perché stona con il... cioè non avrebbero mandato un agente a fare quel tipo... questo agente la viveva a Roma da 13 anni, ed era noto a tutti quelli dei servizi. E questo signore andò avanti mesi a dire: guardate che Moro lo fanno fuori, Ok, a Roma Moro era seguito dai servizi inglesi come Gentile con Maradona nel 1982 in quella partita di calcio. Dell'epoca, no? Allora, sì, d'accordo, c'è questa lotta armata, ma come arrivano ad essere deviati, o sono già dall'inizio? Cosa, o invece c'è, come dire, la deviazione. Un traguardo. Ma la deviazione non è sempre inconscia. Cioè, gli specialisti di queste operazioni di insabbiamenti, eccetera, sono personaggi che entrano in un'organizzazione, ne deviano inconsapevolmente agli altri, le azioni, e con del materiale creato ad hoc molto spesso, quindi con degli obiettivi fattibili, fanno credere alla fazione di essere a un certo punto, poi la fazione viene sgominata perché tanto è conosciuta, però l'intento era far fuori, uccidere la persona ponte tra la parte NATO, cioè la Democrazia Cristiana, e qui si parla di servizi, cioè di NATO, CIA, FBI, che è contro la CIA, perché Cossiga era con l'FBI, non era con la CIA, eh? Lui aveva proprio, si era vantato dicendo che Gladio fosse roba sua. Gladio non ha niente a che fare col fascismo. Io una volta sono stato a una conferenza, un professore di storia che ha messo Gladio e il fascismo nella stessa frase. È l'errore. Se tu eri stato PNF, per esempio, secondo lei, c'entra nel delitto sicuro di Moro, perché aveva un apparato talmente capillare che non poteva non centrare. Gladio era una forza di stay behind, cioè vuol dire che se noi fossimo stati invasi dai russi, Gladio sarebbe intervenuta per la guerriglia. Contro i russi? Assolutamente. Ah, ecco. Beh, era una... No. Gladio, ma in realtà anche quella... Gladio divenne famosa perché Cossiga ammise, no? Si ricorda quando Cossiga disse: sì, è vero, Gladio era roba mia? Sì, sì. È una frase un po' forte, ricordando però che lui fosse del filone FBI, perché in Italia operava l'FBI con Gladio, la CIA per i fatti suoi, con pezzi dell'esercito e della NATO. Sì. Poi c'era il KGB, che aveva tutto il suo apparato dentro probabilmente nel Partito Comunista, fino a Berlinguer, però, perché poi Berlinguer e le Brigate Rosse operavano al di fuori di questo contesto e anche probabilmente ufficialmente al di fuori del CUS. Prego? Ma probabilmente molto l'hanno fatto in autonomia ed è per quello che le hanno sgominate. Capisce? Per quello che le hanno sgominate, cioè anche sono state utilizzate, poi attenzione, sono arrivate fuori delle sigle che noi abbiamo detto Brigate Rosse, ma bisogna capire se effettivamente ci fosse più rosso, nero, giallo, verde, come qui da noi negli anni Ottanta. Chi è che può dire che fosse di nuovo il nuovo terrorismo quello? Non è che possiamo essere sicuri al 100%, perché diventa un brand come l'ISIS. L'ISIS c'è in Libia, ma non sappiamo esattamente chi ne fa parte e chi no. Ok? E soprattutto in alcune zone l'ISIS è visto come positivo anche vicino all'Eufrate, perché gli portano da mangiare alla popolazione. Cioè, bisogna capire, no? Come qui nelle valli era visto come positivo una guerriglia, tra virgolette, verso chi viene viva. Cioè, dobbiamo sempre in storia, bisogna immedesimarsi sul discorso. Secondo me, le Brigate Rosse hanno agito in volontaria autonomia, che poi le ha portate ad andare a sbattere contro il muro più grande di loro. Però attenzione, c'è una teoria militare, questa è una cosa che ancora sta girando poco, che spiega, e Cornacchia me l'aveva detto, che il sequestro di Moro fosse un sequestro stile Gladio. Quindi che le Brigate Rosse in quel caso fossero state infiltrate da uomini di Gladio. Sì, perché Gladio aveva tutto l'interesse che non si faceva, chiaramente. Più che Gladio erano gli Stati Uniti, ovviamente, con Gladio. E in tutto, ovviamente, a Moro era stato promesso negli anni 60 che sarebbe morto, cioè gliel'avevano promesso gli inglesi, perché lui si era accordato con Mattei e Pasolini era al corrente di questo patto. Gli aveva detto: guarda che l'Italia io la voglio fuori da queste storie, nel giro di 20 anni noi dobbiamo essere autonomi, completamente fuori da tutto e semmai in un contesto europeo. Berlinguer parlò di eurocomunismo in tempi non sospetti e rischiò la vita in Bulgaria, dove gli fecero quella specie di attentato, e anche sulla morte di Berlinguer stanno iniziando a uscire delle teorie che fanno un po' rabbrividire, perché anche lì lui aveva detto delle cose determinate, cioè sembrava che lui volesse già trasformare il PC in qualcos'altro, però eravamo negli anni 80 e c'era ancora il muro di Berlino. E soprattutto per quanto ci fosse la perestroica in avvio, stavamo parlando ancora di regimi, sia da una parte che dall'altra. Adesso io non è che giudico, non sto giudicando chi è buono e i cattivi, sto spiegando, esatto, un'analisi neutra della situazione. Comunque io vi rimanderò alla prossima conferenza, dove andremo a unire del tutto con anche un video, dei documenti, e farò intervenire degli attori per farvi leggere, questa volta non ho fatto in tempo perché, per farvi leggere dei passi di petrolio, così vi rimangono nella mente. I passi di petrolio li farò recitare da questi attori che sono più bravi di me a parlare, a leggere, e andremo a fare la seconda fase, cioè quella parte che porterà l'Italia dalla morte di Pasolini al 92. Quindi sarà interessante, perché ci saranno gli anni 80 con determinate questioni anche terroristiche, perché, e poi andremo a, qui ci siamo dimenticati, a Mattei dissero che si era fatto l'attentato da solo, è una delle testate che disse quella robaccia la ripeté per un certo Falcone, quando alla Asinara gli dissero sì, attentato, te lo sei fatto da solo, poi sappiamo come andò a finire, perché poi Falcone e Borsellino in tutto questo non è che non c'entrino niente, loro erano arrivati a capire che cosa fosse successo probabilmente tra lo Stato, la mafia e i famosi poteri economici, quello che volete, come volete chiamarli, e hanno pagato con la vita nella strategia della tensione parte terza, quindi ai georgofili, la strage, gli italiani che non ne potevano più, i Tangentopoli che è esplosa, cioè c'è tutta una serie di questioni che poi noi abbiamo tradotto e abbiamo banalizzato, anche perché l'abbiamo vissuto. Cioè, io ricordo da ragazzino, dicevi che erano tutti ladri questi, ti dicevano erano tutti ladri, e tu sei cresciuto credendo che ci fossero solo dei ladri e che non ci fosse altro che i ladri. In realtà questa narrazione è un po' banale, se si va adesso, senza voler dire Craxi, quello e quell'altro, però è un po' banale dire che erano tutti ladri. Cioè, bisogna capire cosa è successo esattamente dall'88 al 92. Anche con, cioè, ricordatevi Orlando come bastonò Falcone in televisione, adesso si rivende come amico di Falcone, però sono delle questioni che in Italia sono ancora non risolte. Pensiamo anche alle famiglie delle persone, cioè alla famiglia di De Mauro, di cui parlerò la prossima volta. De Mauro è stato praticamente rapito dalla mafia, chissà che fine gli hanno fatto fare, era un povero giornalista che raccontava la verità. Quindi io concludo qui, perché sennò divento pedante. Lei prima ha parlato della Libia, siccome è un tema. Sì. Lei ha parlato di queste tribù interne, poi dei due, leader, più o meno fantoccio, leader, no? E non ho capito bene se c'è un potere reale in queste persone o se il potere è in questi. Guardi, per rispondere con chi è lì in Libia che fa le analisi, Al-Sharrai e Haftar comandano dove c'è il loro perimetro, cioè la città dove sono loro, stop, fuori dalla città loro non comandano un tubo. Le installazioni dell'ENI, c'è la Leni, e le tribù che gestiscono i contratti stanno da un'altra parte ancora. Con Leni, assolutamente. Beh, se non fossimo d'accordo con le tribù, tutte le nostre installazioni le avrebbero già distrutte. Visto che noi lì abbiamo dei contingenti di reparti speciali che ufficialmente non abbiamo, però non è che non sono cosette buttate lì così, ci sono elicotteri da guerra, insomma, sono tutte cose che al telegiornale non vedremo, perché chiaramente dire che siamo lì con gli elicotteri per difendere il petrolio è un po' dura. Però è quello, perché 140 la Libia vale 140 miliardi. Perché 140 miliardi, non è una cifra così. Pensate quante manovre economiche. Grazie a tutti. Allora torneremo per una nuova puntata con Marco Pugliese e andremo avanti nella scoperta della nostra storia moderna, recentissima, anche da coinvolgere l'Italia, però in un quadro più a livello mondiale e globale. Grazie Marco e grazie a tutti voi, buona serata. Segnalo che in biblioteca abbiamo anche libri su Gladio, visto che stasera è venuto fuori un po' di tutto, e anche sul delitto Moro, quindi ci sono anche eventualmente degli spunti lì da trovare. Grazie. Ah, di Gladio? Sì.